Radio Ponderosa and say in movimento, come la radio. non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete. Questa è Radio Onda Rossa, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me, ricordatevi. Ogni martedì pomeriggio alle 16 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lo 06 49 17 50 per intervenire in questo spazio radiofonico, e vi invitiamo caldamente, insomma, se volete partecipare a quanto stiamo discutendo. E andiamo subito, entriamo subito nel vivo? Sì, entriamo nel vivo. Nel morto, qua dicono. Morto perché forse è il caso di celebrare il funerale, un funerale, il funerale è quello del fax. Decreto del fare all'articolo 14. Ma che sì, è il decreto del fare? Decreto del fare. Comunque si può fare molte cose, si possono fare molte cose, però non si possono più fare fax. Ce lo dice tutto il governo, il ministro Carrozza in particolare, e quando si parla di domicilio digitale, della dematerializzazione di tutte. Ma dal primo gennaio 2014, un po' di tempo. Esatto. Quindi ora possiamo mandare i fax. Fino al 31 dicembre. Fino al 31 dicembre si festeggerà bruciando, no? Il fax dai balconi. Ma scatena la diossina bruciare un oddio. Fax. Oddio. Vabbè, in effetti sì, qualche problema c'è, però le amministrazioni pubbliche non possono più comunicare tra loro, non potranno, via fax. E quello che stavamo pensando è chissà che, ovviamente Carrozza, la ministra Carrozza ha firmato anche questa cosa, riguarda anche la scuola, in cui il fax si usa ancora, no? Tanto. Certo. Che ha dichiarato, no, di essere una panterina, cioè di aver fatto il movimento della pantera, e probabilmente come noi anche lei ha dei ricordi del fax, perché è stato proprio in quel periodo che noi studenti universitari abbiamo scoperto questo aggeggio che poteva metterci in comunicazione diretta, anche un po' misteriosa, con tutte le altre facoltà, le università occupate d'Italia, e quindi chissà se questa decisione presa dal governo avrà visto la ministra Carrozza un po' commossa sul... Secondo me è che alla Carrozza non glielo facevano toccare il fax in facoltà, e quindi lei è rimasta un po' così, cioè è rimasta male, e allora ha detto basta, non lo usavo io e quindi non lo usa nessuno. Solo che io avevo provato, ecco, e è successo un problema, niente, continuiamo pure. Sì, diciamo questo, tutto ciò forse è per questa idiosincrasia, questa fobia, ecco, per quanto riguarda la carta, l'uso della carta, che deve essere via via abolita, e quindi da questi microfoni abbiamo parlato dei registri elettronici, ancora parleremo dei registri elettronici che stanno sostituendo quelli cartacei, la documentazione, adesso molta della documentazione, le iscrizioni degli studenti, delle studentesse, le richieste di, non so, trasferimento, eccetera, tutto questo adesso viene fatto online, anche se poi in realtà una versione cartacea forse rimane ancora e comunque deve essere garantita. Quindi diciamo in questa... Comunque guarda, io non ho mai visto tanta produzione di carta da quando c'è il computer e la posta, cioè sì. Perché c'è proprio la mania di stampare tutto, qualsiasi. Quindi, ma anche, cioè, a me mi arrivano della posta elettronica in segreteria 3 pagine di indirizzi, perché non, a volte ti arriva la posta elettronica tutti gli indirizzi delle scuole di Roma e provincia, quindi sono quindi fogli una stampa e fogli che vengono stampati scioccamente. Diciamo. Quindi i risparmi, ecco, diciamo anche l'idea del risparmio oltre che dell'efficienza. Ma non è poi, credo, come ho letto la comunicazione, no, non ce l'ho dietro, con cui appunto si fa divieto tassativo di usare il fax dal 1 gennaio 2014. La questione non è tanto della carta, almeno così è, ma proprio perché non è un modo attendibile, tant'è vero che non vale la mail ma la posta certificata. Chiunque vorrà comunicare con la pubblica amministrazione o all'interno della pubblica amministrazione dovrà farlo tramite posta certificata. Sì, la posta certificata è questa posta di cui ogni cittadino, ogni cittadina italiana può dotarsi, anzi si dovrà dotare, e prevede una piccola procedura, un'iscrizione online dove vanno indicato anche il codice fiscale e diverse altre recapiti, e dopodiché bisogna andare all'ufficio postale più vicino e farsi riconoscere attraverso il documento, e soltanto dopo questa operazione si ha questa PEC, la posta certificata, con la quale, con questa mail, quindi indirizzo mail, con il quale ogni cittadino, ogni cittadina può comunicare con la pubblica amministrazione. Quindi la pubblica amministrazione, ricevendo questa mail certificata, è in grado di riconoscere chi gli sta parlando. È gratuita, questa è gratuita. Altra cosa invece è la firma digitale, che probabilmente verrà subito dopo, che invece prevede un pagamento, dietro pagamento, come dire, un valore alla corrispondenza che una persona indirizza nei confronti dell'amministrazione. Non so, questo è il futuro. Io sono andato a vedere, mi pare che ci sia più di 1 milione di persone che hanno la posta certificata, che forse non è un numero molto alto, considerando... Beh, tutti gli ordini professionali comunque ce l'hanno, sì. Cioè, è stato fatto dagli ordini stessi per i loro iscritti, quindi non c'è stata nemmeno l'attivazione da parte degli iscritti. Poi tante persone sì ce l'hanno, per esempio quando fai la convocazione dei supplenti sul sistema elettronico della pubblica istruzione, vedi che molti aspiranti, come si dice, hanno la posta elettronica, hanno una posta certificata. E va bene, quindi questo è per... Parlatene ancora 2 minuti, che non ho trovato il pezzo. Sì. Diciamo, questo fa parte del pacchetto del fare, e in realtà il decreto che invece riguarda la scuola è il decreto che ha come titolo l'istruzione riparte, l'ho scoperto poco tempo fa, e quindi volevo complimentarmi per l'ideatore o l'ideatrice, l'ufficio stampa, non so chi siano, del ministero, che è in grado, e del governo in generale, che sono in grado di come dire, dare dei titoli, fare delle presentazioni molto così accattivanti, dietro il quale forse nascondere il nulla, ma poi vediamo. Casino potallamento documento tu me le arà. Song song radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. Ramo documenta casino potallamento documento tu me le arà. Song song radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. Patam passaporto, patente, carta d'identità. Un bello documento prima o poi tu me le arà. Un bello documento per ti identifica. Un bello documento ai managgia e a cucca. Voglio tutta aiutata a controllare. Riunione, cortei, centri, università. No, no, no, non c'è faccio più, non te vai mi a cucca. Adina la mamma, la fatica. Assurzi e cacucazzi della già fallua. Voglio ramo documento per ti identifica. Sì, posso lo Ramo documenta casino potallamento documento tu me le arà. Song song radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. Ramo documenta casino potallamento documento tu me le arà. Song song radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. O documenta non mi scappa nessuno, e con questo ci sta ma 791 cavalluna, rumba cazzo, 1200 disoccupati, cani sciolti o compagni organizzati. È una fissazione mia, è una vera malattia, se non vengo documenta non funziona che ho strumenta. Non pago che ho mangia, ma so chiura ne stantina, non riesco che ho caga, se una carne tutte pile. Rammo documenta, rumba romba rogazza, rammo documenta, prima canta rombo mazza. Puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, ramo documenta, casino po' dall'ambiente, documenta tu me le arra. Song, song, radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. I marrobo d'opsa. Sì, riprendiamo appunto la discussione di questo decreto che pensavamo potesse, come dire, decadere o comunque essere attenuato in caso di caduta del governo, invece il governo ce lo terremo per molti altri anni, e dunque è il piano triennale, è veramente il piano triennale, almeno le dichiarazioni su cosa succederà nei prossimi tre anni, quest'anno e fino al 2015 nella scuola, è del settembre, di settembre, e nella scorsa trasmissione già avevamo analizzato alcuni aspetti, alcuni articoli. Oggi ci interesserebbe coinvolgere anche chi ci ascolta per quanto riguarda il personale, cosa viene stabilito sul personale scolastico. E l'articolo 15 in particolare ritorna sulle assunzioni a tempo indeterminato. Avevamo parlato due puntate fa su quante immissioni in ruolo c'erano state per quest'anno, pochine, 11.000, e in realtà qui c'è una grossa novità, una bella notizia per quanto riguarda le prossime assunzioni. Viene dichiarato che nel prossimo triennio ci saranno 27.000, quasi 28.000 docenti che andranno in pensione e 13.400 pensionamenti per il personale ATA, e quindi l'idea è che queste persone possano essere sostituite, che se ne vanno, possano essere sostituite da nuovi ingressi. Oh, di questo non c'è certezza. E in realtà l'unica cosa positiva è quanto viene detto riguardo il sostegno. Gli insegnanti di sostegno in realtà dovrebbero essere assunti per il 75% nel prossimo anno, il 90% per l'anno successivo, il 100% a partire dall'anno scolastico 2015-2016. Questo è, sto leggendo l'articolo 15 di questo decreto, e dunque fino, diciamo, in un triennio si prevede l'assunzione di tutti i posti disponibili per gli insegnanti di sostegno. Come dire, la cosa è positiva. Sta di fatto che due sono, come dire, i problemi che fino, diciamo, il passato è un grande buco, perché c'era stato uno stop consistente, quasi credo che per tre anni non ci siano state assunzioni sul sostegno, almeno tre. Sì, e quindi diciamo conosciamo anche persone che sono magari erano lì per passare di ruolo, perché occupavano i primi posti in graduatoria, e si sono visti bloccati per un triennio. Quindi diciamo queste dichiarazioni potrebbero sanare finalmente questa situazione. E poi l'altro aspetto è che ne abbiamo anche un po' parlato, è che i ragazzi, gli studenti, studentesse che hanno bisogno di sostegno stanno diminuendo, perché abbiamo raccontato di quello che sta passando sui bisogni educativi speciali, e quindi come i ragazzi che hanno un diverso ritmo di apprendimento, hanno diverse capacità, in realtà stanno hanno sempre più difficoltà a essere riconosciuti come ragazzi bisognosi di un percorso di aiuto, di sostegno, e quindi il sostegno via via viene cancellato, e non ci saranno più figure che affiancheranno questi studenti, e gli insegnanti dovranno cavarsela da soli. Quindi abbiamo visto con questa, con le nuove formule, queste nuove strategie che il Ministero sta mandando e che già da quest'anno molte scuole stanno adottando, e quindi studenti che non sono dichiarati studenti che hanno bisogno di sostegno, non ci sono gli insegnanti di sostegno, e però, come dire, bisogna affrontare ugualmente situazioni in cui bisogna prevedere percorsi diversi, quindi piani personalizzati. Quindi diciamo felici per gli insegnanti di sostegno che potranno dare una mano a tutta la classe, a tutta la scuola, però il messaggio dal Ministero è molto chiaro, cioè non bisogna assolutamente chiudere, no, restringere le... Sì, in realtà il gioco è stato molto complicato da capire dall'esterno, perché è stato fatto un decreto, che è quello sui bisogni educativi speciali, che allarga le categorie che possono essere dichiarate bisognose di speciali percorsi educativi, le allarga e ce ne sono di più, e sono anche senza certificazione, possono essere problemi sociali, sì, linguistici, di tanto, familiari, di tanti tipi. Nel mezzo a questi anche persone invece che hanno una certificazione medica, però di fatto pare che questo BES serva per togliere a chi prima aveva diritto al sostegno il sostegno, perché adesso viene inglobato nel BES, non si sta parlando di tutte le categorie di handicap ovviamente, ma solo per esempio della dislessia, disgrafia, discalculia, e che prima avevano diritto alla presenza in classe di un secondo insegnante che poteva aiutare loro e il resto della classe, insomma, a uniformare ritmi di apprendimento diversi, adesso questa persona non ci sarà più. In compenso gli insegnanti, volendo, potranno indicare come bisognosi di percorsi educativi speciali una miriade di ragazzi, a cui però l'amministrazione non dà niente in cambio, cioè solo il singolo insegnante che dichiara che avrà un'attenzione speciale. Questo a me sembra in soldoni, ecco. Sì, ne avevamo in parte già parlato, e effettivamente è proprio questo, almeno secondo me, l'aspetto più rilevante di questa, diciamo, normativa sui BES, che va in parte a coincidere, a sconfinare in quella sul DSA. E proprio il fatto che, per quanto riguarda i ragazzi ritenuti, diciamo, portatori di bisogni educativi speciali, non c'è certificazione, sono i consigli di classe che via via indicano questi ragazzi la, diciamo, identificazione del bisogno educativo speciale può anche essere, diciamo, discontinua nel tempo, per cui un ragazzo che per il primo quadrimestre è un BES può non esserlo per il secondo, e così via nel corso degli anni scolastici. Questa indicazione è totalmente a carico dei consigli di classe, la individuazione delle modalità di intervento su questi ragazzi è tutta quanta a carico dei consigli di classe. Analogamente è per i ragazzi con DSA, cioè con la dislessia, che prima erano invece persone che venivano affiancate nei casi più gravi da insegnanti di sostegno. A questo proposito, siccome sono questi i primi consigli di classe, questi di ottobre, in cui si identificano i ragazzi con BES, volevo anche dire a chi ci ascolta, quando nelle prossime puntate faremo proprio un approfondimento sui BES, cercate di raccontarci anche la vostra esperienza, perché è attraverso proprio la valutazione delle esperienze dei singoli che si fa una storia più complessa. Andiamo verso la fine della trattazione, sì, di questo decreto, con un altro articolo molto pesante, che è il 16. Sì, che è quello che poi ha avuto più eco nei giornali, ed è, ve lo leggo: al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socioeducativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014 è autorizzata una spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste, per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico, con particolare riferimento a rafforzamento delle conoscenze e competenze di ciascun alunno, potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socioeducativo e forte concentrazione di immigrati, all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici, all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica, e all'aumento delle competenze dei docenti per i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Questo è, diciamo, la formazione obbligatoria per i professori e le professoresse più ciucci. E si misura chi è ciuccio a seconda di come sono andati gli studenti o le studentesse ai test Invalsi. Questo è alla fine, quindi i ragazzi e le ragazze fanno un test Invalsi, se vanno male il docente va a farsi un corso obbligatorio, poi non si capisce perché sulla gestione scolastica e sulla digitalizzazione, ma almeno ci mandino a imparare le nostre materie, come si insegnano, no? No, perché evidentemente se i tuoi studenti sono ciucci è dovuto al fatto che tu non sai, non soltanto forse non sai la tua materia o non sai spiegare, non sai neanche o accendere un computer, ma non sai neanche gestire bene la scuola. In realtà la devo gestire io, sì, la scuola. Sì, certo, perché nel comma successivo in realtà qualcosa viene spiegato, ovvero chi è che organizza questi corsi di formazione, riqualificazione, non so, per i docenti così ciucci, possono essere, ecco, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. Quindi quei 10 milioni diamo a CL sostanzialmente. Sì, il CEPU, anche il CEPU, qualcosa di simile. E quindi è chiaro che loro già sanno a chi devono andare questi soldi e quindi devono mettere dentro un comma, una voce che possa giustificare questa designazione. Cioè c'è un'apertura al privato, il linguaggio è quello della concorrenza e trasparenza, cioè dichiarano quello che poi non sarà, e ovviamente assenti sono la metodologia e la didattica. Assente anche la considerazione di tutto ciò che intorno alla scuola, famiglia, società, qui si parla di zone a rischio, concorre a far sì che determinati ragazzi non raggiungano obiettivi prestabiliti. Cioè, poi mettiamoci anche il fatto che in una classe di 30 e più ragazzi con anche livelli, adesso pensiamo per esempio a una scuola superiore, no? Dove tu arrivi già da un percorso di elementari e medie, in genere da diversi anni si fanno i test d'ingresso perché per valutare a che livello stanno i ragazzi, perché non è che puoi partire con un col latino quando i ragazzi e le ragazze non conoscono la filologica, per dirne una, no? Quindi si bypassa completamente questo aspetto, però ti formo sulle le situazioni a rischio, le zone a rischio, ma te lascio magari 30 ragazzini scalmanati e queste, io non voglio adesso difendere, anche perché non lo sono, il corpo insegnante in toto, no? Però ammettiamo pure per assurdo che siano una massa di ciucci e che questo si possa valutare in base ai test Invalsi, che insomma abbiamo parlato fino alla nausea l'altro anno, ne riparleremo, però non mi sembra questo il sistema. Fra l'altro tu non puoi obbligare delle persone su basi insomma così aleatorie a stare, cioè praticamente è un lavoro il corso di formazione, non è che è un divertimento, non è ricreazione, a gratis, no? Per risparmiare e poi dai i soldi ai soliti amici eccetera, perché poi i criteri di concorrenza, che facciamo, gli appalti a ribasso, cioè chi è come le cooperative di pulizia, chi offre di meno. No? Ma che accidenti del discorso è, insomma. E fra l'altro, insomma, per chiudere questo discorso, i corsi di formazione offerti, si fa per dire, imposti dal Ministero dell'Istruzione a noi insegnanti, tutti quelli che ho fatto io, nessuno mi ha mai insegnato niente, perché sono tutti finti, fatti soltanto per pagare qualcuno che li impartisce questi corsi. Io parlo per esempio del corso che ho fatto quando sono entrata di ruolo pochi anni fa, sì, sì. Perché dopo 10 anni di precariato poi devi fare pure l'anno di prova e quindi il corso è formazione. Io assicuro chi ci ascolta, ma se sono insegnanti lo sapranno, che a noi non c'era nessuno fisicamente in classe a farci lezione e ci lasciavano in due computer dove dovevamo fare dei corsi online però in presenza, e internet non funzionava mai, quindi noi dovevamo star lì 4 ore e aspettare che passasse il tempo, portarci dietro qualcosa e poi ci firmava la presenza. Questo poi vale anche per quanto riguarda il personale amministrativo, che ne abbiamo detto tante volte, ha avuto un cambiamento negli ultimi anni dalla scuola dell'autonomia in poi, di una mole di lavoro e di un lavoro molto complicato. Lì la formazione era ancora peggio, cioè andavi in un'aula magna della scuola che ce l'aveva più grande, quindi 500 persone con uno che andava a manetta, sì, a spiegare cose molto complicate con gli slide, tu uscivi e ti sentivi cretino, insomma, sì, proprio, sì, certo, e cretina completamente, no, perché non riuscivi, cioè queste sono cose molto delicate, per esempio, che tu dovresti fare esercitazioni, no, in classi più piccole, invece no, però se mo lo devi fare perché io te l'ho insegnato, insomma. No, ma noi siamo alla ricerca di docenti, di insegnanti, di qualcuno che sia in grado di aiutarci, di guidarci, di illuminarci, di dirci delle cose diverse, e di condividere con noi l'esperienza. Io ho esperienze invece di casi positivi per quanto riguarda meno matematica, la sapienza, però cioè io dovrei essere pagato in realtà, però non ci sono soldi per l'aggiornamento attualmente, chi vuole aggiornarsi nella scuola non ha soldi per farlo, quindi io che andrò a un convegno dovrò pagarmi viaggio, vitto, alloggio e il convegno per migliorare, a trovare le persone che siano in grado di aiutare. E le università, pensiamo alle università statali, io a questo mi riferisco, hanno dei gruppi di didattica che sono in grado di guidare, indirizzare, far crescere una classe degli insegnanti delle scuole superiori o anche di tutti gli altri gradi? Io direi complessivamente no. Io direi che adesso, davanti a questo interrogativo, facciamo un'altra piccola pausa. Vi faccio sentire Lithium dei Nirvana, che mi sembra che possa essere, come dire, una soluzione non auspicabile ma possibile. I'm so happy 'cause today I found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. We'll go miss Sunday morning, 'cause every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Di testi invalsi, che saranno, come dire, la nostra Bibbia dentro o fuori, e in base agli esiti, appunto, prevedere un percorso alternativi per i docenti, e da Londra, dall'Inghilterra, che sta molto avanti per quanto riguarda la scuola, no? Sui test standardizzati, la somministrazione di quiz e di prove ripetute agli studenti, beh, si sta svegliando qualcosa, perché ci sono 180 firmatari di una lettera inviata poi in definitiva al governo e al ministro dell'istruzione, di professori universitari di Oxford, Bristol, Newcastle, eccetera, e che denunciano proprio questo sistema. Avevamo già raccontato qualche mese fa negli Stati Uniti che qualcuno, come dire, storceva un pochino il naso, no? Qualche docente, le famiglie, gli stessi ragazzi erano in disaccordo su questa impostazione ormai acclarata, e anche in Inghilterra il ministro ha dovuto fronteggiare questo malcontento in uno sciopero degli insegnanti. Il ministro, il portavoce del ministro, si è detto sconcertato che lo sciopero accada proprio mentre il governo propone di pagare di più i professori più bravi, fingendo che sia questo il problema. In realtà il problema è che, come sostengono i firmatari, avere una serie, questa competitività sfrenata tra gli studenti, questa smitragliata di quiz, in realtà porta a peggiorare il rapporto con gli studenti, porta a avere un peggiore rapporto con le famiglie, con i genitori, e un rischio che addirittura il proliferare di queste regole nelle democrazie di tipo occidentale in realtà non porti a una società più ordinata e protetta, più efficiente, no? Ma una giungla dove tutti si sentono perduti. E fra l'altro non ci crederete, ma se ne è accorto, se c'è un piccolo risveglio anche nell'Accademia Italiana, perché è notizia proprio di, c'era sul Manifesto di giovedì scorso un'intervista a Gregory, accademico dell'Accademia dei Lincei, che diceva che questa ipervalutazione dei docenti aveva distrutto l'università italiana. Parlava in particolare dell'ANVUR, certo. È 15 anni che c'è l'ANVUR e Gregory se ne è accorto oggi, però è l'ANVUR? Come la sigla non me lo ricordo, però è una nazionale valutazione di valutazione dell'università e della ricerca, quella che impone i test all'interno della ricerca, insomma, che è lo stesso meccanismo poi della scuola, che però è arrivato prima nell'università. E infatti abbiamo già le classifiche dell'università, i giornali riportano le classifiche con le 10 ultime, ovviamente non abbiamo tempo per leggerle tutte, di solito noi quando stiamo sulla metro o in ufficio o in classe a non far niente, e le ultime 10 vi posso dire quali sono: Federico II di Napoli, ovviamente c'è il Sud, eccetera, ma le prime. Peccato che qualcuno storca il naso, perché gli indicatori sono quelli un po' così, dove ecco più si fissano griglie, più si... Ma perché sarebbe meglio Cassino della Federica II, fammi capire. No, non lo so. Dipende, forse sì. Vai sì, a consultare... secondo alcuni parametri, adesso ci sono le classifiche degli ospedali e così via. Sì, peraltro su queste classifiche dell'ANVUR si era già discusso proprio su questi microfoni quest'estate, perché c'erano state varie edizioni in cui le università sciacquavano dalla prima alla ventesima posizione a seconda dei parametri adottati, quindi sostanzialmente non ci capisce niente nessuno. E chi c'era entrato dentro questo meccanismo aveva capito che erano favorite o quelle piccole oppure favorite quelle grandi, in realtà era il numero che era un indicatore molto pesante. Ma sempre per lo stesso motivo, perché non importa come si insegna e cosa si insegna, ma importa, che ne so, quanti bagni ci sono, che è chiaro che è importante quanti bagni ci sono, ma è chiaro che in un'università privata o in un'università molto piccola questi parametri si risponde meglio che non alla Sapienza, dove magari però c'è qualche corso un po' più di sostanza. Cioè... Sì, ma le osservazioni di Gregory sul Manifesto andavano proprio in questo senso, insomma, cioè sulla la necessità di valutare anche all'atto dell'iscrizione quelli che sono quello che è il portato dei grandi atenei sostanzialmente. I'm not gonna crack. I miss. Allora, riprendiamo. Adesso volevamo intanto dare una bella notizia, almeno insomma per noi e per chi ci ascolta, che la Conferenza Episcopale Italiana ha diffuso i dati relativi agli avvalentesi, come si dice, dell'insegnamento della religione cattolica. Allora, nell'ultimo ventennio, va di moda dire ventennio, la percentuale di alunni che si avvalgono della religione cattolica è scesa di quasi il 5%. Non è tanto, ma insomma sembra una notizia buona. La talpa scava lentamente, passando dal 93 all'89%. E per quanto riguarda gli ordini di scuola, le superiori invece è ancora più bassa la percentuale, perché è dell'83%. Le aree geografiche, questo è interessante, è insomma abbastanza intuitivo: il nord arriva al 74% di avvalentesi, quindi molto più bassa della media nazionale, il sud, qui io sto prendendo da una di queste, chiamiamole agenzie, no, che comunque sono utili e ti mandano un sacco di notizie, e dunque al sud la definisce roccaforte cattolica con l'87,4%. La Toscana spicca con il 19,6% di studenti che optano per le materie alternative, e poi ci sono Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Liguria. Insomma, fra l'altro ci segnala che in Liguria troviamo casi estremi come quelli del liceo classico di Genova, dove un'intera classe ha chiesto di essere esonerata. Il discorso è che probabilmente era una classe intermedia, perché come sappiamo all'atto dell'iscrizione si bada molto bene a non mettere tutti non avvalentesi in una classe, perché verrebbe a mancare l'ora. Invece, a parte insomma questa bella notizia, adesso passiamo a una cosa che sta girando, speriamo, quantomeno nelle scuole in questo momento, e che c'ha pure dei lati abbastanza da teatro dell'assurdo. Allora, c'è una circolare che adesso è arrivata alla quarta stesura, e non sto scherzando, che riguarda semplicemente questo. Allora, il ministero sta facendo una ricognizione, parole della ministra, su quanti sono i dipendenti e le dipendenti che potrebbero rientrare nella famosa quota 96, adesso vi spiego, stiamo parlando di pensioni, non più al 31/12/2011 come era la riforma Fornero, ma al 31/12/2012, ovvero chi in quel momento poteva vantare 60 anni di età e 35 anni di servizio, ovviamente con la laurea, eccetera eccetera. Intanto già nella seconda stesura si andava a dire che insomma, non so se sono tre o quattro, ma mi pare tre, che intanto non era più fino al 31/12/2012, ma si distinguevano due periodi: 31 agosto 2012 e 31 dicembre 2012. Questo apre la questione del contenzioso, che ancora riguarda la questione del contenzioso di quelli che rientravano per quanto riguarda la scuola nella riforma Fornero, cioè quelli che avevano i requisiti al 31 dicembre 2011 e che invece sono rimasti fuori perché è stato arbitrariamente deciso che i requisiti dovessero essere quelli al 31 agosto, perché finisce l'anno scolastico. La cosa è assurda, insomma, non si riesce a vedere la luce, però insomma ci sono vertenze in piedi, perché ovviamente come forse chi non è nella scuola non sa, i dipendenti della scuola hanno una sola finestra, come si dice in gergo, per andare in pensione, cioè dal 1 settembre, e quindi se non puoi andare dal 1 settembre aspetti un anno. Questo non accadeva anche adesso che le finestre, mi pare, per gli altri dipendenti sono state ridotte, non accade in nessun'altra categoria. Tanti anni fa, se eri nata il 1 settembre, dovevi aspettare un anno. Poi questa cosa fu corretta e appunto si inclusero anche quelli che maturavano i diritti entro il 30, che compivano gli anni, non tanto il servizio, ma che compivano gli anni, poi successivamente anche il servizio, entro il dicembre, cioè nel millesimo, diciamo. La terza o quarta stesura, poi c'è un foglio che va compilato indicando l'età e il servizio. Sono ovviamente sicuramente escluse tutti i nati e le nate nel 1953, perché al 31 dicembre del 2012 non avevano 60 anni, che è il requisito minimo, cioè si può, diciamo, prendere in prestito qualche mese da una o l'altra parte, dall'età o dal servizio, ma il minimo è quello lì. per cui tu potresti avere, per esempio, se, in altri casi, qui ci sono degli esempi, per esempio, allora 60 anni più contribuzione 36, perché la quota è 36, quindi in realtà 60 anni e 35 non sono sufficienti, però se c'hai 60 anni e 3 mesi e 35 mesi e 9, beh, ti serve comunque, insomma, il discorso è questo, ma sotto i 60 rimani fino, secondo i calcoli, insomma, grosso modo, chi non rientra in questo c'ha altri 4 anni d'allegria e di corsi di formazione. Poi, appunto, dicevo, la cosa mena, che la quarta o terza stesura è che hanno rimesso tutta una cosa analitica della dichiarazione dei servizi, perché hanno pensato che quella lì, poi i dipendenti, le dipendenti eccetera, non ci si sapessero orientare. È ambigua questa circolare, perché dice tutti coloro che avrebbero intenzione di andare in pensione devono compilare questa cosa, che però non vale come pensione, cioè loro, uno, la domanda è giustamente, ma a che cavolo serve, quando in genere a gennaio, vabbè, l'altro anno uscì aprile, maggio, esce, diciamo, la famosa circolare sui pensionamenti nella scuola, lì ci stanno proprio le tabelle molto chiare e sai subito di che morte muori. Vogliono vedere quanto gli costa, è evidente questo, e quindi hanno diviso arbitrariamente ancora una volta, nonostante ci siano vertenze in piedi, per, diciamo, che, come dicevo, che aveva i diritti nel 2011, arbitrariamente in due periodi, adesso vedranno se gli conviene, cioè gli conviene, quanto gli costa, e sanno prima, e questo è veramente una schifezza secondo me, già questo meccanismo, no? Io modifico la legge non a un diritto magari, ma in base al fatto se mi costa o non mi costa, insomma, che mi pare una cosa assolutamente assurda. Poi uno si potrebbe chiedere perché per loro la riforma Fornero, in fondo, no, non potevano non toccarla, perché fanno questo? Io non lo so, forse si sono accorti che tutti i dati di, però mi sembra un po' debole come motivazione, tutte le cifre che hanno dato di assunzioni eccetera sono campate per aria, perché già l'anno scorso gli sono sballate, perché in pensione non c'è andato, c'è andata pochissima gente, quindi potrebbe essere. Altri ragionamenti io sinceramente non so farli in questo momento. No, in effetti. Anche perché non è che c'è stata una critica alla legge, quindi un'idea di cambiarla e rivedere. Quella rimane un pilastro che loro si tengono stretto e che vantano in Europa, no? Quindi... La Fornero? Sì, certo. No, Saccomanni proprio stamattina, lo sentivo per radio, ha dichiarato che non esistono i presupposti per cambiare la riforma Fornero in nessun modo, quindi questo è proprio... Sì, come Profumo, tutto il lavoro fatto da Profumo e da chi l'ha preceduto, sono stati sostanzialmente incassati dalla ministra, e vabbè, anche il clamoroso errore del concorso, no? Oppure del bonus maturità, quello sul quale è stato fatto poi dopo marcia indietro, in realtà sono incassati i dimensionamenti degli istituti scolastici, no? Che sono stati una tragedia, in realtà con questo decreto di cui abbiamo parlato prima vengono confermati e ci saranno dei leggerissimi aggiustamenti, ma i risparmi, come dire, si intascano. Lo colpiscono perché dicono il vero. Posse? Onda rossa la posse. Puoi trattenerti ore, sì, ma poi nascerà il segno. Guarda, NCOT scalpita il requieto. Mai domato perché viene dalla strada. Lui spara, rompe il buio mentre illumina la rima. Copsi, ex, militata. Ribelli in prima linea che declamano il messaggio. Forte, potente. Non giri di parole ma diretti verso il cuore. Per colpire ancora il cuore. Per colpire ancora il cuore. Perché ho visto, perché ho visto. Io ho visto, sì, troppe volte io l'ho vista, ascoltata, cine, TV, radio, nei giornali, questa storia. Storia di una banda non di strada, indifesa, in offesa, armata, è la cricca del potere, mafia lì nell'Italia. Controllano l'Italia e tu sucker. Spicche, sacche, spicche, vendi immagini deviate. La boss, i mercati, gli stagni insanguinati. Buongiorno, la vediamo subito i titoli del nostro giornale. Lili Group e Bruno Vespa, Everardo dalla noce, Carmen la sorella, Enzo Biagi Montanelli. Facciano notizie, tagliate con salsicce buone da mangiare, dal canale di legale immagini, punte, scritture, intere presenze che raccontano di niente, gratis, nella tua TV, davanti, seduti e per sdraiati, morti, liberamente prigionieri, tu, bocca d'olio, posto dei pensieri da grazie. L'arte di cambiarla simulata, camuffata, rivoltata, modellata. Peccino col pennino, speculi su tutti. Per quattro, sporchi, duri di soldi. Pezzi alla carriera, sei come una bandiera. Le chi cura il direttore e ti fotti del Reale. Non credere nei media, non credere nei media, non credere nei media. Una cinquantina di teppisti dove mercato alle fiamme al unico trattore hanno bloccato un bus dell'ATA dopo aver fatto scendere i passeggeri quanti piani. Alti finanzieri, nostri trafficanti, banchieri, magistrati, politici intriganti, stronzini, usurai, giornalisti e poliziotti. Quando uscite per la strada guardatevi negli occhi, vivete calpestando, ma forse calpestato vi sta pedinando. Siete categorie a rischio. E questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola e questa è Radio Onda Rossa, gli 87.9. E intanto vi anticipiamo che martedì prossimo, quando questa trasmissione andrà in onda dalle 16 alle 17, parleremo dello sciopero del 18 ottobre. Si tratta, come sapete, di uno sciopero generale indetto dai sindacati di base, in cui però insomma aderisce anche il settore scuola. E ho davanti agli occhi appunto il volantino dei COBAS, dei comitati di base della scuola, che dice no alla scuola miseria, alla scuola quiz, no al sistema di svalutazione, ai BES, alla riduzione del sostegno, all'aumento dell'orario di lavoro, alla distruzione delle pensioni pubbliche. Venerdì 18 ottobre sciopero. Vorremmo parlarne con chi ci ascolta di questa giornata e soprattutto sentire cosa nelle scuole eventualmente si muove, insomma, rispetto a questo, perché in genere quando si convoca uno sciopero generale è anche un momento d'arrivo di una mobilitazione. Quindi vorremmo, insomma, sentire proprio dalla voce di colleghi e colleghe nostri e nostre che cosa succede nelle scuole, insomma, se se ne parla, come se ne parla, qual è un po' il clima, perché noi possiamo riportare ovviamente il clima delle nostre scuole, manco tanto, e quindi credo forse è questo la cosa che più ci può interessare, insomma, nel parlare di questo sciopero che è comunque generale. E quindi martedì prossimo ne parleremo. Intanto, in chiusura invece di questa puntata, vi diamo un'altra informazione che ci sembra assai importante, almeno per chi lavora a scuola. Che succede? Succede che nemmeno tutti e tutte quelli che lavorano nella scuola lo sanno, che noi abbiamo diritto, sia personale non docente che insegnanti, a 3 giorni l'anno di permesso per motivi personali / familiari. E che possono andare dai più drammatici ovviamente ai più normali, cioè così, magari sono matrimonio, quello che ti pare. E resta il fatto che davanti a problemi invece grossi e che si prolungano nel tempo, l'unica cosa che ti rimane è l'aspettativa senza stipendio. Va bene, allora c'è una sentenza del Tribunale di Potenza del 4 ottobre di quest'anno, quindi recentissima, che però si basa sul ricorso dell'aprile del 2011. Cosa accade? Che un insegnante chiede 2 giorni di permesso retribuito, e mettendo come motivazione, perché la norma dice che si può autocertificare anche se insomma è vago poi il contratto, un viaggio all'estero, e la dirigente, mi pare che è una donna ma non so sicura, comunque il dirigente gli dice di no perché la docente si era già assentata nel 2010 per 3 sabati, uno a titolo di sospensione disciplinare disposta dallo stesso dirigente, che la classe doveva sostenere gli esami di Stato e che la docente avrebbe potuto programmare il viaggio all'estero nelle imminenti festività pasquali. E il giudice del lavoro dichiara il diniego, appare illegittimo. E cita l'articolo 15 quindi del contratto, che dice che il permesso si può prendere per motivi personali e familiari documentati anche con autocertificazione, e poi dice: va rimarcato che nei motivi personali ben può rientrare un viaggio all'estero indipendentemente dal fatto che ci si rechi all'estero per motivi di studio o semplicemente per svago. E dalla lettura combinata del comma 2 dell'articolo 15 con l'articolo 13, cioè quello delle ferie praticamente, che subordina le ferie del docente nel corso delle attività didattiche, sono 6 giorni durante l'anno scolastico che i docenti possono prendere, no? A parte ovviamente le ferie estive, subordina specifiche condizioni dal potere organizzativo del dirigente. Si evince che il diritto ai 3 giorni di permesso retribuito non è soggetto ad alcun potere discrezionale, e quindi insomma poi va avanti e la condanna il dirigente al pagamento dei danni per 48,06 euro, che so la prenotazione del volo Bari-Siviglia fatto da questa, diciamo, coriacea insegnante, perché non tutti insomma sarebbero andati fino in fondo. Sulla somma dovranno essere calcolati interessi locali, eccetera eccetera. E ovviamente c'è poi la condanna pure ai resistenti, che sono l'ufficio scolastico regionale della Basilicata, perché poi quando il dirigente si trova in queste situazioni non è una cosa sua personale, difeso dall'avvocatura dello Stato, e li condanna alle spese di 1.800 euro oltre accessori di legge, disponendo nel pagamento in favore del procuratore del ricorrente, quindi l'avvocato, per dichiarato anticipo. Insomma, veramente sembra una cosa minima e sciocca, però insomma appuntatevela mentalmente, perché su questa questione dei permessi per motivi personali c'è veramente una giungla incredibile. Insomma, chi li dà, che vuole che te si allaga a casa, vuole la certificazione dell'idraulico, che sì, non sì. Ti ha fatto la fattura, figuriamo se te fa il certificato dell'allagamento, insomma, e così via. No, ma potete anche raccontarcele delle vicende raccapriccianti, potete scriverci, no, nella mail del nostro blog che adesso vi diremo. In realtà questa dirigente ha confuso un pochino l'articolo 13 e l'articolo 15. L'articolo 15 prevede 3 giorni di permesso retribuito e dice che anche i 6 giorni di ferie possono essere considerati in questo modo. Quindi alla fine sono 9 giorni in cui un insegnante di ruolo può chiedere di stare a casa per fare la sua salute, per tutelare la sua salute. In realtà questa dirigente ha inglobato i 3 giorni nei 6 di ferie, e quindi per i quali non ci deve essere l'onere per l'amministrazione, ma è un arbitrio. Invece perché 9? Perché tu sei legato alla didattica, mentre il personale, diciamo, che non insegna ovviamente ha le sue 32 giorni di ferie, e in teoria li può prendere anche nel corso dell'anno, non necessariamente comunque l'estate. Segnalateci tutti gli abusi che vengono fatti nelle vostre scuole dai dirigenti. E la mail è oradibuco@ondarossa.info, il blog è oradibuco.noblogs.org. Vi facciamo ascoltare la sigla di chiusura e poi lasciamo la console al martedì autogestito da femministe e lesbiche. Non vi facciamo ascoltare la sigla di chiusura, ma vi facciamo ascoltare una canzone a caso, perché abbiamo avuto un piccolo problemino con il programma, eccolo.